Ad alta voce. Le metamorfosi di Ovidio, tradotte e lette da Vittorio Sermonti. Libro primo, versi 1, 312. A dire di forme alterate, in forme di corpi mai visti, mi sento sedotto. Dei, ah, date respiro all'impresa avviata, avete alterato anche quella, e assecondate il mio canto, dal primo principio del mondo, ininterrotto, ai miei giorni. Prima di mare e terre e del cielo che tutto copre, la natura nell'universo presentava un unico aspetto, che si è convenuto chiamare caos, massa grezza, indistinta, nient'altro che un blocco inerte, una congerie di germi disparati, di cose male accozzate fra loro. Non c'era ancora Titano il sole che offrisse al mondo la luce, né Febe la luna che nuova, crescendo, colmasse la falce, né la terra, compatta di gravità, era appesa in un'aria che la avviluppasse, né Anfitrite l'oceano aveva disteso ancora le braccia a disegnare le rive del mondo. E sebbene la terra ci fosse, ci fossero il mare e l'aria, la terra era malferma, innavigabile l'acqua, l'aria senza luce. Nulla che conservasse una forma sua propria, ogni cosa urtava nell'altra, da che in un unico corpo il freddo confliggeva col caldo, il secco con l'umido, il molle col duro, il grave con l'imponderabile. Un Dio, per non dir la natura propizia, sedò questi attriti e separò le terre dal cielo e dalle terre le onde del mare, distinse l'azzurro puro dell'etere da un'aria più spessa. Sdipanati, sottratti all'impasto brumoso e dislocati gli elementi, ciascuno al suo posto, li accordava in serena armonia. Sprigionandosi verso l'alto, ecco insediarsi al vertice di tutta la volta celeste l'energia senza peso del fuoco. Per sede e per leggerezza le è quanto più prossima l'aria, più densa di loro, la terra ha compattato ogni grave e al proprio peso soggiace. Versandosi intorno, l'acqua occupa gli ultimi spazi e imprigiona la massa del mondo. Così disposta quella congerie, il Dio, chiunque si fosse, la seziona, le sezioni organizza in un tutto e a cominciar dalla terra, per uniformarne l'intera superficie, l'aggomitola in un grandissimo globo. Diffonde le acque e ingiunge alla rapina dei venti di incalzarle a recingere i margini della terraferma. Fa di più, le sorgenti fa e le immense paludi e i laghi e chiude fra sponde tortuose il deflusso dei fiumi che, secondo i terreni, o sono assorbiti da quelli o raggiungono il mare e accolti in più libero spazio d'acqua, anziché sulle sponde, si frangono sulle scogliere. Ordina alle pianure di spandersi, alle valli di incidersi, di coprirsi di foglie ai boschi, alla pietra dei monti di alzarsi. E come ha diviso il cielo sulla destra in due zone, in due sulla sinistra, con al centro una torrida quinta, così lo zelo divino ha distinto in fasce la massa che include, sulla terra imprimendo zone altrettante. Inabitabile è quella di mezzo per la calura, la neve opprime le estreme, alle due dislocate, fra queste, un clima assegnò temperato, mescolando la fiamma col ghiaccio. In alto c'è l'aria, che di tanto è più pesante del fuoco, di quanto l'acqua è più leggera del suolo. Lì ordinò si aggregasse la nebbia, le nuvole lì, e i tuoni destinati a terrorizzare gli umani, e i venti, che con il bagliore producono le folgori, ai quali non consentì l'architetto del mondo di spaziare per tutti i reami dell'aria, ma ancor oggi, sebbene ciascuno spadroneggi con le sue raffiche su un proprio tracciato, c'è rischio che sbrindellino il mondo, tanta è la rissa fraterna. Euro si ritrasse verso Oriente, verso la Persia e i Nabatei e i monti esposti ai raggi dell'alba. Le spiagge dell'Occidente, stiepidite dal sole a tramonto, son giurisdizione di Zefiro. La Scizia e le orse del settentrione son preda dell'orrida Borea. Agli antipodi, senza tregua, austro trasuda di nuvole e di acquazzoni. Molto al di sopra dei venti, il Dio dispose l'etere fluido e privo di peso, esente da feccia terrena. Una volta che il tutto fu suddiviso entro limiti ben definiti, le stelle, a lungo sepolte per entro una tenebra cieca, presero a brulicare nell'intero spazio del cielo. E perché non ci fosse regione spoglia di esseri vivi, stelle e figure divine occuparono l'area del cielo. Si aprirono le acque a ospitare lo scintillio dei pesci. La terra si assunse le belve, la volubile aria gli uccelli. Ma un animale più nobile, di più elevato intelletto, degno di primeggiare su tutti gli altri, mancava. Ed è nato l'uomo, sia che a modellarlo da seme divino fosse il fabbro di tutte le cose per promuovere il mondo, sia che la giovane terra, distinta appena dall'etere, preservasse l'impronta dello stampo celeste, e Prometeo, il figlio di Giapeto, lui la avesse impastata con acqua piovana per improntarla ad immagine degli dèi, padroni di tutto. E come gli altri animali guardano chini per terra, dispone che l'uomo punti il cielo a testa alta e che sollevi lo sguardo a contemplare le stelle. Così, fino allora grezza ed informe, la terra mutò, sagomandosi nella sconosciuta figura dell'uomo. Prima a fiorire è l'età dell'oro, che senza leggi e senza tutori coltiva di suo giustizia e lealtà. Ignoti castighi e paure. Nessuno leggeva minacce affisse in tavolette di bronzo, né tremava al cospetto del giudice una folla di supplici. Tutti sicuri senza esser protetti. Non ancora il pino, segato sui monti natali, fendeva le onde per esplorare mondi ignoti, e non c'era mortale che conoscesse altre rive che le sue rive. Non c'erano ancora fossati scoscesi a recingere i borghi, non trombe diritte di bronzo, non corni ricurvi, non elmi, non una spada. Senza bisogno di eserciti, praticavano i popoli in pace la dolcezza di vivere. La terra poi, liberamente, non smossa dal rastrello, non piagata ancora dal vomere, produceva tutto da sé. Contenti dei cibi prodotti senza sfruttarla, gli umani coglievano vuoi corbezzoli, vuoi fragole di montagna, vuoi le corniole, vuoi tra le spine dei rovi le more, vuoi le ghiande cadute dall'albero ombroso di Giove. Perpetua la primavera, e i tiepidi soffi di Zefiro carezzavano con dolcezza fiori nati senza semenza. Non arata, la terra non tarda a ricoprirsi di messi, e campi non dissodati a biancheggiare di spighe e pingui. Scorre il latte a torrenti, il nettare scorre, e biondo sgocciola il miele dal verde dei lecci. Quando, poi, cacciato Saturno nel buio del Tartaro, Giove impera sul mondo, subentra l'età dell'argento, più scadente dell'oro, ma più prezioso del bronzo brunastro. È la volta che Giove contrae la primavera d'un tempo, con l'inverno, l'estate, un autunno discontinuo e una primavera abbreviata, spartisce l'anno in quattro stagioni. Ecco, ustionata da torride vampe, l'aria candida farsi di fuoco, quando non gocciola ghiaccio rappresa dai venti. Ecco spuntare le prime case, che erano grotte, strati di foglie, frasche ammucchiate l'una sull'altra. Ecco i semi di cerere, sciorinati in lunghissimi solchi. Ecco torelli che smaniano sotto il peso del giogo. Terza le tiene dietro l'età del bronzo, più dura d'indole, più corriva agli orrori delle armi, non scellerata, però. L'ultima poi ha il feroce rigore del ferro e irrompe nell'era di quel metallaccio qualsiasi delitto. Pudore, lealtà, buona fede spariscono, rimpiazzati da menzogne e frodi e violenza e dal tradimento e dalla maledetta brama di avere. Senza conoscerli, ai venti apre il marinaio le vele e tuffa in acque ignote legni che svettan da sempre su per i monti, la terra fino allora di tutti come l'aria e la luce del sole, diffidente il contadino la misura e la demarca con lunghissimi solchi. Né si contenta più di pretender dal fertile suolo gli alimenti dovuti, ma penetra le viscere della terra a cavarne tesori nascosti e relegati fra le ombre di stige, istigazione a tutte le nostre sciagure. E appare il ferro funesto, e più funesto del ferro, l'oro. E la guerra appare, che forte dell'oro e del ferro brandisce stridule armi con mani che grondano sangue. Di rapina si vive, l'ospite non può più fidarsi dell'ospite, del genero il suocero, è raro perfino l'amore fraterno. Il marito propizia la morte della moglie, lei del marito. Atroci matrigne rimescolano pozioni giallastre di aconito. Il figlio calcola gli anni del padre e non vede l'ora. Tramortita è la pietà. E ultima lei dei celesti, la Vergine Astrea, diserta questa terra sudata di stragi. E non che il sommo dell'etere fosse più sicuro del suolo, anzi si narra i giganti mirassero al regno dei cieli, accatastando montagne su montagne a toccare le stelle. Allora l'Onnipotente sgretolò l'Olimpo col fulmine, e il picco del Pelio spiccò dalla dorsale dell'ossa. Sepolti gli empi corpacci sotto tanto crollo, la terra copiosamente imbevuta del sangue dei figli, si narra che se ne impregnasse e che, rianimandone il tiepido umore per tramandare una qualche memoria della sua specie, molasse quel sangue in figura di esseri umani. Anche quelli, però, spregiatori di dei, avidissimi di carneficine e brutali. Inevitabile, erano i figli del sangue. Ciò vedendo, Giove Saturnio dalla rocca del cielo geme e a ripensare l'orrenda cena servita alla tavola di Licaone, crimine poco noto per essere troppo recente, pigia nel cuore una collera immane, degna di lui, e indice il concilio. I convocati affluiscono. C'è in cielo una altissima via che si vede quando è sereno, la chiamano Lattea, famosa per il suo candore. È ben quello il percorso che fanno gli dei per la casa del re del tuono, per la sua reggia. Spalancate le porte, si affolla negli atri, a destra e a sinistra, l'aristocrazia dell'Olimpo. I gregari non abitan qui. Qui hanno insediato i penati, i più potenti e famosi fra gli inquilini dei cieli. Potessi permettere permettermi un lessico disinvolto, oserei definire così fatto palazzo il Palatino Celeste. Preso dunque posto gli dèi fra i marmi del luogo, seduto più in alto di tutti, poggiato al suo scettro d'avorio, lui Giove scrolla 3-4 volte la terrificante criniera che fa sobbalzare la terra, il mare e le stelle. Poi, con queste parole, dà sfogo alla collera. Mai sono stato tanto in ansia per il governo del mondo. Nemmeno ai tempi che quelli con 100 zampe di serpe tentarono di imprigionare il cielo brancandolo, mai. Per feroce che fosse il nemico, quella guerra era mossa da un'unica setta ed aveva un unico scopo. Stavolta mi vedo costretto su tutta la terra, cintata dal suono del mare, a sterminare tutto il genere umano. Per i fiumi d'Averno, che sottoterra lambiscono il bosco di Stige, lo giuro. Tutto ho tentato, ma un corpo incurabile va reciso col ferro che non infetti la parte sana. E penso ai semidei, ai miei numi rurali, alle ninfe, ai fauni, ai satiri. E penso ai silvani dei monti, siccome non li stimiamo ancora degni del lustro dei cieli, gratifichiamoli almeno di una terra abitabile. O voi, divini, siete convinti che possano stare tranquilli? Se a me, che comando i fulmini, e voi controllo e governo, atteso un agguato, a me, Licaone, famoso assassino. Fremono tutti insieme e accanitamente pretendono la condanna del temerario. Così, quando l'empio manipolo infierì nel sangue di Cesare per estinguere il nome di Roma, atterrito da tanta improvvisa catastrofe, il genere umano restò di sasso, rabbrividì l'universo mondo. E non ti ha toccato meno di quanto toccasse Giove la devozione, Augusto, della tua gente? E zittiscono quando Giove seda il tumulto con la voce e col gesto tutti. Tacitati appena i clamori con la sua regale maestà, rompe il silenzio Giove e riprende il discorso così. Non preoccupatevi, quello l'ha già pagata abbastanza. Ora vi illustro il delitto e vi racconto il castigo. L'infamia dei tempi che corrono mi era giunta all'orecchio. Sperando fossero storie, dal sommo Olimpo mi calo a perlustrare la terra, io Dio travestito da uomo. Ma troppo mi ci vorrebbe a enumerare i delitti che riscontro. Con la realtà non c'è infamia che regga il confronto. Avevo passato il Menalo, orrendo covo di belve, il Cillene e le fredde pinete del Monte Liceo, e ti arrivo nel paese poco ospitale e nel palazzo del re d'Arcadia, mentre il crepuscolo cede il passo alla notte. Segnalo l'arrivo di un dio e tutta la gente si mette a pregare. Licaone no. Comincia che irride le preci, poi fa: un dio? E se fosse un uomo? Io voglio una prova inoppugnabile, almeno così non avremo più dubbi. Di notte, a tradimento, contava di assassinarmi immerso nel sonno e così appurava la verità. Per intanto, non soddisfatto, sgozza con le sue mani uno degli ostaggi del popolo dei Molossi e il corpo che palpita ancora parte lo mette a lessare nell'acqua bollente, parte lo rosola al fuoco. Appena lui me lo serve in tavola, io con la folgore vindice gli rovescio addosso il palazzo degno di tanto padrone. Atterrito scappa e una volta nel silenzio della campagna, sforzandosi di parlare, ulula Tutta la rabbia gli si concentra in bocca e la solita voglia di uccidere si sfoga sui greggi. Oggi ancora non gli piace che il sangue. I vestiti si cambiano in peli, le braccia in zampe, diventa lupo. Però serba tracce della figura d'un tempo. Il pelo grigio è lo stesso, la stessa grinta assassina, gli occhi gli brillano uguale, è la ferocia vivente. È crollata una casa, ma non meritava una casa soltanto di sparire su tutta la faccia della terra, imperversa le rinni. È il più scellerato dei patti. Allora scontino tutti la pena che ha meritato, e subito. Questo ho deciso. C'è chi acclama il discorso di Giove e ne aizza la collera, chi si limita a cenni di assenso. In tutti i casi, lo sterminio del genere umano accora tutti. Che faccia, si domandano, avrà mai la terra una volta disertata dall'uomo? Chi porterà l'incenso agli altari? Il mondo conta lasciarlo in balia delle bestie feroci? Questo si chiedono. Il re dei celesti li invita a non darsi pena, ci penserà lui, e promette una razza diversa in tutto da quella di prima, generata per incantamento. Ed eccolo pronto a sommergere il mondo di fulmini. Teme però che un eccesso di fiamme gli incendi l'etere sacro e che gli prenda fuoco il lunghissimo asse terrestre. Ricorda che negli stessi fati è prescritto il tempo che mare e terra brucino, che bruci la reggia del cielo, a repentaglio mettendo l'ingegnoso impianto del cosmo. Così ripone i missili fabbricatigli dai ciclopi. Preferisce un altro castigo, affogare il genere umano, ma sì, scatenando uragani per tutta l'ampiezza del cielo. Prima cosa, rinchiude negli antri di Eolo la tramontana con tutti i venti che scacciano gli ammassi di nuvole e libera lo scirocco. Vola scirocco su ali fradice, il volto trucidamente velato da un gran nebbione di pece. La barba greve di pioggia, grondanti i bianchi capelli, la fronte aggrottata di brume, zuppe le penne e le vesti. Fa tanto di premer la mano sulle nuvole appese nel cielo che si sente un botto e trabocca un rovescio di pioggia dall'etere. Iride, messaggera di Giunone vestita di tanti colori, convoglia le acque per alimentare le nubi. Stramazzan le messi, piangono tante speranze frustrate i contadini e il lavoro sprecato di tutta l'annata. Ma non basta il cielo all'ira di Giove finché suo fratello azzurro non lo soccorre col rinforzo delle onde. Che fa? Convoca i fiumi e appena li vede nella sua reggia adunati, non è proprio il caso, dice, scapicollano a mare. Lui stesso percuote col suo tridente la terra e la terra trema e crepandosi apre varchi alle furie dell'acqua. Straripati i fiumi si avventano per tutta l'aperta campagna. Con i raccolti travolgono alberi, greggi, uomini, capanne e gli arredi sacri dei penetrali domestici. E se una casa ha retto in piedi a tanto disastro, ecco un'ondata più alta del tetto sommergerla, ecco sparire alla vista le torri sbriciolate dai gorghi. Non c'è discrimine più fra mare e terra. Tutto è oceano, tutto è un oceano di cui non vedi le sponde. C'è chi si è arrampicato su un colle, chi seduto in una barchetta dritta, ricurva, rema per dove arava un attimo fa. Uno naviga sopra i suoi campi e i tetti dei suoi cascinali, un altro acchiappa un pesce sulla cima di un olmo. Succede di buttar l'ancora nel verde di un prato, succede di sfregar con la chiglia la pergola d'una vigna, o che là dove brucavano l'erba gracili capre, ora foche sformate depongano i loro corpacci. Sbalordiscono le nereidi di vedere sott'acqua giardini, città, palazzi. I delfini parcheggiano nelle foreste e, volteggiando fra i rami, rimbalzano contro le querce. Nuota fra pecore il lupo, l'onda scarrozza leoni, scarrozza tigri. Al cinghiale non serve il fulmineo vigore. Le zampe veloci non servono al cervo travolto dai flutti. Cercato a lungo un terreno su cui posarsi, l'uccello errante si lascia piombare con ali sfinite nell'acqua. L'immenso arbitrio del mare ha seppellito le alture. In vetta ai monti si frangono dei cavalloni mai visti. L'acqua travolge tutti. Quei pochi che ha risparmiato, la carestia li annienta con una implacabile fame. La prima puntata delle Metamorfosi di Ovidio, tradotte e lette da Vittorio Sermonti per Ad Alta Voce, che è un programma a cura di Anna Antonelli, Fabiana Carobolante, Lorenzo Paolini e Chiara Valerio. L'ingegnere del suono era Matteo Bolzoni. Vi ricordo ancora una volta che potete riascoltare solo in streaming e solo per il periodo della messa in onda le Metamorfosi sul sito di Ad Alta Voce, che è adaltavoce.rai.it.